E bentornati a una nuova puntata di Mike FM, sempre in orario e giornata tipica, perché niente, la Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, insomma i viaggi e le vacanze ci hanno un po' fatto saltare il calendario solito, quindi ultimamente non siamo mai andati in onda il mercoledì se non con delle repliche, ma eccoci in tempo utile comunque oggi, venerdì 12 maggio, per parlare di un evento che inizierà giovedì 25 maggio. Facciamo delle trasmissioni su questo evento già da qualche anno, dal 2014 abbiamo iniziato a frequentarlo, è lo Spring Attitude Festival di Roma, che si svolge appunto dal 25 al 27 maggio negli spazi del Guido Reni District e nello spazio del Maxi, che è sempre in via Guido Reni. Parleremo delle differenze anche logistiche, come abbiamo già scritto nella presentazione della trasmissione, rispetto all'altro anno, e iniziamo con questi suoni così dilatati per un musicista di musica ambient elettronica, che abbiamo già sentito per il pezzo Promises of Fertility come uno dei pezzi best 2016 per Pitchfork. Si tratta di Huerco S. Di Kansas City, ora di base a Brooklyn, Brian Leeds ha iniziato a far musica nel 2011 e appunto nel 2016 ha pubblicato questo album molto apprezzato che si chiama For Those of You Who Have Never, parentesi, and also for those who have, cioè per coloro di voi che non hanno mai, ma anche per coloro che sì. Il pezzo che stiamo ascoltando adesso è Cubist Camouflage, si esibirà, e andiamo proprio in ordine cronologico, alle 20:15 nella serata di apertura, che come l'anno scorso, appunto, c'è stato un passaggio da un museo a un altro, dal macro testaccio siamo passati al Maxi, il museo per le arti del XXI secolo, la bellissima struttura progettata dalla, ahimè, defunta Zaha Hadid, al suo studio londinese di architettura, bellissima struttura dove appunto l'anno scorso già si è svolta l'inaugurazione della prima giornata. E anche un po' inaugurazione bagnata e fortunata, perché proprio all'inizio scoppiò un acquazzone allucinante. E nella giornata serata al Maxi, gli spazi fondamentalmente dei live o degli audiovisual live, che è anche una caratteristica per chi fa musica elettronica, avere come corredo ideale, naturale, dei visual, saranno appunto lo spazio dell'auditorium a entrata limitata, quindi spesso appunto si deve fare la fila per entrare in attesa che qualcuno liberi qualche posto, e poi invece il lobby stage, ovvero il palco nel foyer, insomma nell'ingresso, il grande ingresso del museo, e poi anche lo spazio del piazzale, sempre sede di installazioni a cura, come l'anno scorso, di Studio Aira, ma ne parleremo più tardi. Questo tappeto sonoro di ambient sperimentale, così molto calmo e rilassato, di Huerco S ci porta a quello che per me è il nome in assoluto più atteso, cioè ci sono grandissimi nomi, ma per me personalmente Jenny Qual è la più attesa. Bellissimo pezzo Female Vampire, tratto da Blood Beach del 2016, settembre 2016. Avrei voluto fare tipo la prima puntata di Might FM di questa stagione con questo album, ma niente, non è successo. Anche lei abbiamo sentito però nella puntata dedicata ai migliori pezzi del 2016, perché nella classifica di Pitchfork c'era il meraviglioso Conceptual Romance, tratto da questo album sui vampiri, le mestruazioni e il film horror anni 70. Questo album che proprio vede la consacrazione, che è apparso nei best di tantissime testate come miglior album, tra i migliori album del 2016, per una musicista e anche scrittrice norvegese, classe 1980, che ha studiato in Australia all'inizio di questo secolo all'università scrittura creativa e performance, e poi è tornata in Norvegia, ha assunto lo pseudonimo di Rocket to the Sky, con cui ha pubblicato tra il 2006 e il 2008 due album, poi con il proprio nome, Viscera 2011, Innocence Skinky 2013, poi Riconoscimento con Apocalypse Girl del 2015, e poi è arrivato questo bellissimo Blood Beach. Ci ha lasciato Jenny Pahl, che si esibirà appunto, come abbiamo detto, nel lobby stage, il palco principale, negli spazi del Maxi, alle 21.15 di giovedì 25. Io avevo scritto apposta all'ufficio stampa per chiedere a che ora iniziava, perché arrivando insomma nel tardo pomeriggio a Roma non volevo insomma perdermela per nessun motivo. Dicevamo, Spring Attitude è giunta la sesta edizione, noi abbiamo cominciato a seguirlo nel 2014, quando gli spazi principali erano quelli del macro testaccio, la Pelanda, e poi con una serata finale, insomma con i nomi più grossi, nello spazio 900 all'Eur. Dall'anno scorso lo spostamento totale come museo, si è passati appunto dal macro al maxi, ma anche al di là della strada, le serate, insomma il grosso del festival, si sono svolte nell'allora, nella ex caserma Guido Reni, ovvero questo grandissimo complesso militare, caserma storica della capitale. Stiamo parlando della zona comunque non lontana anche dall'auditorium di Roma. Uno spazio che appunto era stato ridato alla città per scopi civili, dopo appunto la dismissione della sua natura militare, quindi un'area enorme fatta appunto di questi viali che costeggiano capannoni, hangar e anche spazi verdi, attualmente anche sede all'entrata di un'oasi felina, ci sono tantissimi gatti tra cucce, tappetini e cibo soprattutto. Era stato dato in concessione, non so come sia adesso, all'associazione che organizzava l'Outdoor Festival, si è inserito Spring Attitude, nel frattempo tutto il complesso ha cambiato nome, si chiama Guido Reni District, quindi apertura il 25 al Maxi, dal giorno dopo si attraversa la strada, sono proprio di fronte perfettamente all'inizio di via Guido Reni, ci si arriva tranquillamente con il tram, mi sembra, non vorrei dire cavolate, forse il 3, ma ci si arriva comodamente in tram. Ma ma chi è che ci ha accompagnato come sottofondo a questa sequela di informazioni è il secondo gruppo che si esibirà all'Auditorium alle 10. Sono i Radian, ovvero il Radiante, l'unità di misura dell'ampiezza degli angoli, un trio austriaco attivo dal 96, post rock, jazz, elettronica, anche una collaborazione con Howie Gelb, The Giant Sand, e nel 2016 l'ultimo lavoro On Dark Silent Off, di cui stiamo ascoltando Recreate Loved Objects, un trio Martin Brandmeier, Martin Sievert e John Norman. Radiant. Però devo fare una piccola precisazione. C'è un altro nome che non vedo l'ora di ascoltare e vedere, ovvero Max Cooper. Nel lobby stage alle 22:30 per anche lui una di audio visual live. Nato nell'80 a Belfast, ora di base a Londra, è iniziato a far musica nel 2007. Una musica che ho visto definita highly produced emotional electronica. Cosa fondamentale, ha studiato genetica, ha fatto un PhD nel 2008 in biologia computazionale, ovvero una branca della bioinformatica, una disciplina volta a risolvere problemi biologici a livello molecolare con metodi informatici. Già stiamo parlando veramente di fantascienza per me e anche per molte altre persone. E ovviamente questo background scientifico ha influenzato molto il suo modo di fare musica, insieme a altri nomi come John Hopkins, Olafur Arnolds e Sigur Rós. Ha fatto molte EP collaborazioni, primo vero e proprio album Human nel 2014, seguito poi da Emergence nel 2016, e sarà appunto questo il titolo della sua performance, è proprio Emergence Audio Visual Live, un album fatto con un suo collaboratore frequente, ovvero Tom Hodge. Adesso nel 2017 è uscita anche la versione remixed con nomi come Rival Consoles, a cui abbiamo dedicato una puntata, Vessels, Patrice Baumel. Questo ovviamente è un pezzo di Emergence, si chiama Symmetry, e a conferma di questa sintesi tra scienza ed elettronica io vorrei raccomandare l'ascolto di un pezzo di un suo EP del 2014, era il Kindred EP, e c'è questo pezzo meraviglioso da ascoltare a volume abbastanza alto con la cuffia, veramente un viaggio incredibile, infatti si chiama Voyage Through the Analog Womb, quindi un viaggio nell'utero analogico di 10 minuti e mezzo, per una musica quindi elettronica ma molto molto umana, appunto come il titolo del suo primo disco, e molto organica. E ritornando idealmente nello spazio dell'auditorium, alle 11:15, ovviamente di sera, si esibirà anche lui un audiovisual live, Grisha Lichtenberger. 1983 Bielefeld, poi Berlino, dal 2009 parte dell'etichetta sperimentale Raster Noton, un primo album nel 2012 e l'ultimo appunto nel 2016. L'album si chiama Spielraum, Allengegenwart Strahlung, ovvero spazio d'azione, onnipresenza, radiazione, con dei titoli di pezzi alfanumerici peggio di Oetker e Aphex Twin. Vi dico solo che il pezzo che stiamo ascoltando si chiama 002 underscore, sono tutti numeri separati da underscore, 002 0415 08 LV1 RE 0114 11 LV1 B2 Deface, Spielraum, eccetera eccetera. Spesso abbiamo detto negli anni, parlando dei vari festival che in Italia ultimamente si stanno dedicando alla musica elettronica, specifichiamo sempre che musica elettronica non è necessariamente musica da ballare, anche se la parte del clubbing è sempre ben rappresentata, ma molto spesso si tratta anche di musica elettronica o d'ascolto o sperimentale. E direi che Spring Attitude, soprattutto con questa edizione, sta veramente spiccando il panorama nazionale insieme a Club to Club di Torino. Senza però neanche dimenticare gli artisti emergenti, sia della scena internazionale, insomma quelli che da pochissimo hanno iniziato a far parlare di sé, quindi proprio cogliendo al balzo le situazioni, insomma. Lo zeitgeist, ecco, non mi veniva. E poi anche le realtà italiane, e infatti ce ne sono diverse nel programma, come sempre. E dopo Grisha Lichtenberger torniamo per il finale danzereccio, ma anche qui con delle particolarità. Gran finale nel lobby stage a mezzanotte con Moscoman DJ. C'è sempre più presenza e riconoscimento anche nell'abito del clubbing, dei suoni del Nord Africa, del Medio Oriente, come l'anno scorso infatti c'era Arab Music. Quest'anno c'è Moscoman, fondatore dell'etichetta Disco Halal, techno più house più new wave e suoni del Medio Oriente. Moscoman viene da Tel Aviv e sta a Berlino, quindi immagino sia, non so, un arabo israeliano, perché esistono, che altrimenti magari si chiamava Disco Kosher. We'll be right back. poi andando spesso a braccio erano acid arab, non arab music. Ma comunque questo pezzo molto bello, o d'altra parte scelgo i pezzi che mi piacciono, come potrebbe essere altrimenti, è tratto dall'ultimo album del 2016 di Moscoman, A Shot in the Light. Questo pezzo si chiama Death at the Fun Reel, non Death at the Funeral, Death at the Fun Reel. Ed ecco dove viene fuori il funerale, con questi tocchi di campana a morto. È anche successo che, essendo arrivate un po' lunghe nella realizzazione di questa puntata, perché insomma sono delle giornate un po' concitate, contrariamente al solito in cui opero un furioso taglia e cuci per starci dentro con i tempi, oggi questo non è potuto succedere. E quindi i pezzi ce li ascoltiamo in tutta la loro maestosa bellezza e interezza. Eravamo il giovedì sera a mezzanotte con Moscoman. La serata finirà all'Auditorium, a mezzanotte un quarto si esibirà Mutek, pseudonimo di Giuseppe Guariniello, con Sound of the Spheres, audiovisual live, rielaborazione di frammenti audio e video della NASA per una performance immersiva capace di alterare percezioni e metterci in comunicazione con l'armonia dello spazio. Quindi non esistono pezzi da poter passare, bisogna solo esserci e assistere alla performance. Quindi diciamo che la serata sarà conclusa. Ricordiamo appunto, l'abbiamo appena citato, appena poco citato, Max Piazzale, lo studio Aira, che presenta l'installazione Modul.ior, l'anno scorso è stata molto molto bella. E siamo a venerdì 26 maggio, dove gli spazi sono fondamentalmente due: quello grande, che ha assunto il nome di Jaeger Stage, e l'altro più piccolo, sempre dedicato, sempre onnipresente, a Red Bull Music Academy. E si parte alle 22.30 con gli ISO. I più attenti di voi ricorderanno questo nome. Si tratta di un duo nato recentemente, nel 2014 a Como, Luca Tommasoni, sound designer e compositore, insieme ad un batterista, Roberto Tagliabue, autore di pop elettronico, a cui viene applicata appunto la scienza del suono. E appunto qualcuno potrebbe ricordare che erano dei concorrenti a X Factor del 2015. Erano anche arrivate abbastanza avanti, si erano distinte anche per una cover di Albano, dei Cigni di Balaca. Poi sono andate a Berlino, l'anno scorso hanno registrato un EP, Skip September Volume 1, da cui stiamo ascoltando il pezzo principale, Over My Soul. Pezzo principale si evince dal fatto che di questo pezzo ci siano nell'EP due remix ad opera di Sun Glitters e M+A, insomma nomi appunto emergenti della scena elettronica abbastanza pop nostrana, e poi ci sono altri due pezzi inediti, ISO. Quindi 22.30 ISO nel palco principale, alle 23.10 parte invece la programmazione nel Red Bull Music Academy Stage, e parte con un altro nome, insomma, che ci farà molto piacere vedere finalmente dal vivo di persona, ovvero Night Jewel, pseudonimo di Ramona Gonzalez, Los Angeles. L'abbiamo conosciuta qualche anno fa nell'ambito della scena, diciamo, chill wave, quella di Washed Out, di Neon Indian, quando insomma questi giovani americani hanno scoperto un po' dei suoni un po' nostalgici, un po' come una Polaroid sovraesposta, e poi anche ha recuperato diversi suoni anche anni 80 nel corso della sua produzione musicale, che è arrivata appunto una settimana fa alla pubblicazione di un nuovo album, Real High, da cui ci ascoltiamo I Don't Know. Che a Maite FM è apparsa un paio di volte, una volta nella puntata dedicata a Grimes sotto la voce riferimenti anni 80, e poi anche nella puntata dedicata a Julia Holter, perché sono molto molto amiche e hanno fatto diverse cose insieme, come anche ha fatto anche un altro EP con Dumb Funk. Invece in questo album Real High, preciso il riferimento sonico stilistico è a Janet Jackson e soprattutto al suo acclamatissimo album Janet del 93. Questo pezzo, I Don't Know, se ne discosta un po', ma vi assicuro che questo suono è molto presente e fatto molto bene. I Un altro grosso nome sarà quello dei Suns Suns, 23-30 Jaeger Stage, Montreal, Canada. Dal 2007 sono incontrati Ben Shimi e John Jarmus, poi sono diventati in breve tempo un quartetto, krautrock, neopsichedelia, art punk. Primo album nel 2010, Zeros QC, poi nel 2013 Image du Futur e da ultimo Old / Steel. Ascoltando Instrument, tutti gli album dei Suns sono usciti per la Secretly Canadian, che noi nominiamo molto spesso, anche ultimamente, in quanto l'etichetta da sempre praticamente di Jens Lehmann, però per esempio è, insomma, c'è una voce fuori dal coro, perché proprio la nostra Ramona Nigel ha parlato male, diciamo, della Secretly Canadian, perché per questa etichetta ha fatto l'album One Second to Love del 2012 e lei appunto ha denunciato il fatto che l'abbiano voluta spingere in una direzione molto commerciale che non era quello che lei, insomma, si sentiva di fare, non era quello che le apparteneva. Anyway, questa è Instrument. E ripassiamo al Red Bull Music Academy Stage, dove a mezzogiorno, sì, mezzogiorno, certo, mezzanotte e 15 si esibirà Forest Swords. Audiovisual live, l'abbiamo già potuto vedere, se non completamente, che siamo arrivati tardi, non per colpa nostra, al Club to Club. Forest Swords, Matthew Barnes, sempre pubblicato per la Ninja Tune. Lui viene da Liverpool, nel 2009 ha fatto il primo EP, Poi nel 2010 i primi riconoscimenti grazie a un EP, Dagger Paths, poi il primo album nel 2013, Engravings. È stato affiancato ai nomi dell'elettronica contemporanea come James Blake, Mount Kimby, Burial Fortet, per un'elettronica sperimentale con elementi di trip hop e dub, ma sempre molto carica emotivamente, magari più Ben Frost per il lato più sperimentale. Appunto l'abbiamo già visto a Club to Club, e nella trasmissione dedicata a Club to Club avevamo passato un pezzo tratto da Shrine. Era un progetto, l'ultimo progetto prima della pubblicazione del nuovo album, ovvero era la colonna sonora di uno spettacolo di danza incentrato sui suoni del corpo umano. Infatti questa organicità rimane in questo nuovissimo album, anche questo uscito come quello di Jewel una settimana fa, 5 maggio, si chiama Compassion, già lodatissimo dalla critica. E come si può sentire, anche la voce umana, non in forma di parole ma di suoni di voci, è anche molto presente in questo bellissimo pezzo. Ho avuto difficoltà a scegliere quale pezzo passare, alla fine mi sono decisa per questo, che non a caso si chiama Raw Language, quindi linguaggio grezzo, primitivo. Raw Language di Forest Swords, le spade della foresta. E insomma, poi alla fine, insomma, non vedo l'ora di vedere tutti, perché lo Jaeger Stage a mezzanotte e 40 sarà Nathan Fake, il mattarello di Nathan Fake, from Norfolk, molto precoce, dal 2003 ha iniziato a fare musica. Noi ce lo ricordiamo per un live all'alba col sole nascente a Benicassim nel 2006, anno del primo album Drowning in a Sea of Love, soprattutto ricordiamo il pezzo Long Sunny, poi Hard Highlands nel 2009, Steam Days nel 2012, pezzi preferiti Paean e I Seni Strings. Ricordiamo già la partecipazione a Robot nell'edizione 2005, no 2005, edizione numero 5, quando suonò qui a Bologna al TPO, cioè qui davanti, e noi c'eravamo. E quindi era il 2012, anno appunto di Steam Days, e poi un ritorno per Robot 08 nel 2015, quando si è disfatto completamente di droghe insieme a Clark e poi ha perso l'aereo per tornare a casa. Questo pezzo mi è venuto in mente ora, di pezzo di saturazione incrementale, è la title track del suo ultimo album, Providence, e il primo per la Ninja Tune, anche lui. Ce lo siamo persi per una serata che è andata sold out nell'ambito della rassegna Blender a Locomotive a fine marzo, ma eravamo impegnate qui al TPO come Radio Kairos per Eno Libri. Ma appunto ci aveva rincuorato sapere e scoprire che l'avremmo recuperato allo Spring Attitude Festival, perché se non si è capito, in effetti non lo nomino spesso, il nome della rassegna che si svolge a fine maggio ogni anno a Roma da 6 anni, Spring Attitude Festival, un'attitudine primaverile, un'attitudine quindi di apertura anche a tutte le novità dei suoni della scena elettronica, ripeto, non necessariamente da ballare. È sempre un piacere tornare a Roma nella bella stagione, forse appunto la parte dell'anno dove Roma può dare il meglio di sé, a parte l'immondizia, speriamo che la situazione si risolva. Infatti anche l'ultima volta ho pensato e ho scritto che sì, vabbè, il mondo è bello tutto, la possibilità di viaggiare è una cosa meravigliosa, poter vedere luoghi incredibili, però alla fine poi quando torni a Roma, Roma è sempre magica. E mentre finisce Providence, tratta da Providence, Nathan Fake, ribadiamo ancora una volta come sia bellissimo andare ai festival e prepararsi soprattutto, non solo per fare una trasmissione, ma proprio anche come spettatrice appassionata, come sono io, e scoprire appunto questi nomi che non si conoscevano. Magari Fabio BP rabbrividirà, perché adesso sto dicendo che io non conoscevo Bonsai, ma l'ho scoperto. Nata nell'Indiana ma cresciuta fuori Dublino, genitori cantante jazz e musicista, ha 20 anni, adesso sta a Londra. Le sue influenze: Santi Gold, Mia, MIA, Muramasa, con cui è andato in tour. Tutte informazioni che abbiamo tratto da un'intervista su Vogue UK, perché è anche un bel personaggio, a livello di immagine si vende molto bene. Musica definita bubblegum bass, alternative R&B UK bass, perché diciamo che da questa ora in poi che sarà quella dell'1:30 di notte, il Red Bull Music Academy Stage sarà preso in ostaggio, direi, e il suo pubblico da un trio di giovani femmine MC rapper feroci, senso positivo, ferali. E la prima quindi sarà Bonsai, e stiamo ascoltando un mix di due pezzi tratto dal suo EP del 2016 Lunacy. Questo primo pezzo è I Did, seguito da To Be. Signature, you want it rightly so, because I do it well. I step up to the altar, you take a bow, take a bow, take a bow. Ecco, questo pezzo ricorda moltissimo l'ultima Senti Gold, per esempio. E nell'intervista c'è scritto, le chiedono qual è il pezzo che avresti voluto scrivere, e lei cita questo pezzone che nel 2000 io mettevo nelle feste lesbiche e non solo, ovvero Sonic, It Feels So Good. E non mi era venuto in mente, potrebbe essere veramente un alternative take di Banshee di Senti Gold, a cui abbiamo dedicato una puntata l'anno scorso sul suo ultimo album 99 Cents. E finisce Bonsai, e speriamo che sia come l'anno scorso, che meno male che la distanza tra le due sale e i due stage è di pochissimi metri, non come in altri posti che invece, insomma, a volte è disagevole, come è stato l'ultimo anno con la sala gialla, soprattutto insomma quest'anno per problemi di capienza, di file eccetera, a Torino al Lingotto. Ma andiamo avanti, perché uno dei nomi più grossi e che abbiamo visto e sentito e apprezzato tante volte, ma non ci stanca mai, l'uno e tre quarti, sarà John Hopkins. E non c'è molto da dire, se non che è passato un po' troppo tempo da Immunity del 2013, ma magari creare capolavori richiede tempo. In mezzo, nel 2015, un capitolo curato da lui di Night Tales, dove appunto un artista cura come DJ Kicks, però di tenore assolutamente diverso, insomma, la musica che si ama ascoltare a casa, magari nelle ore tarde, e che contiene come caratteristica sempre una cover di chi cura il disco, e in questo caso si tratta di I Remember dei Yes Sayer, tratto da Hot Blood del 2010, ovvero Might FM numero 14 della prima stagione. Ad aprile 2010 dedicammo una puntata a questa band che amiamo, abbiamo rivisto anche al primo giorno d'estate scorsa all'Anavi, e questa è la cover di John Hopkins, I Remember. Thank you. ovviamente la versione degli Slayer è cantata e leggermente più veloce. Questa versione, che senza nulla togliere a John Hopkins, sì, potrebbe essere stata fatta per esempio da Olafur Arnalds, insomma tutta questa schiera di musicisti. O Nils Fram, soprattutto. Lasciamo decantare questa versione così dilatata e atmosferica di I Remember, cover degli Slayer, rifatta da John Hopkins, che farà un DJ set a Spring Attitude nella sala grande del Guidoreni District. E come dicevo, il secondo nome di queste giovani incazzatissime rapper MC che prenderanno in ostaggio Red Bull Music Academy Stage, chissà se faranno prigionieri, come si dice anche nella scheda di presentazione, si tratta di Tommy Genesis. I'm just asking my vision. I'm just asking my vision. I'm just asking my vision. Anche lei, giovanissima, Tommy Genesis da Vancouver, Canada, però metà indiana e metà scandinava, un aspetto molto carino, femminile, fa anche la modella per Calvin Klein, e invece una musica cattivissima, testi super aggressivi. Io, sentendo dai primi pezzi di questo album World Vision, riconoscendo qualche parolina tipo clit, pussy and she, do you like girls, cose così, sono andata a seguirmi tutti i testi che potete trovare su Genius Lyrics, perché questi testi sono molto pesi, parlano soprattutto di sesso e droga. Lei è bisessuale dichiarata, per un genere che è stato... è stato definito fetish rap. Quindi uno stile musicalmente ambiguo, forse indefinibile per tutte queste nuove sviluppi che sta acquisendo anche un genere che è stato, insomma, abbastanza ingessato per un po' di tempo, quello del rap, dell'hip hop, invece con nuovi nomi anche tra gli americani, tipo Young Thugs, insomma. Sta diventando più strano, più difficile da definire, e mantenendo, forse esaltando ancora di più il lato poco rassicurante. Take my hand on me, love to stand, make down. They're gonna try to destruct my wisdom. E il pezzo che abbiamo ascoltato era Execute, tratto da World Vision del 2015. Ripassiamo nello stage principale, dove dopo John Hopkins ci sarà quel pazzo di Oscar Powell, che abbiamo visto e sentito diverse volte, e come ho detto anche l'altra volta alla puntata Club to Club, conosciuto, scarrozzato, è rivisto, è abbracciato appena è sceso dal palco di Club to Club, è sceso giù dal palco, io ero lì davanti alla transenne, siamo abbracciati, ma non avevo invece passato nessun pezzo suo, perché per motivi di tempo nella trasmissione dedicata al Club to Club abbiamo privilegiato nomi sconosciuti e non abbiamo passato nessun pezzo ultimo di Powell, ma lo facciamo adesso. Tra l'altro suona spessissimo in Italia, ho visto anche che già c'è un'altra data a Trento tra poco e ha quindi un grandissimo seguito in Italia. Avevamo parlato però, anche se non avevamo sentito nessun pezzo, del suo ultimo lavoro Sport del 2016, dove infatti compaiono i colori olimpici, e di quanto appunto rappresentasse la sua attitudine proprio da cazzone, attitudine punk, e mi è venuto in mente come se Beavis e Butthead facessero elettronica. Let it burn, your nature, it turns. It's your culture, it's your culture. If you gotta. Questo pezzo forse è quello più normale, più tradizionale, più identificabile, riconoscibile. Per un disco invece ha dei pezzi che sono spezzone, registrazione, parte il beat, poi si interrompe, rumori, conversazioni registrate da Skype. Un pezzo che si chiama Fuck You Oscar. Questo invece è Frankie featuring Frankie. Culture, your flag, it burns, your nature, it turns. You encounter, we encounter culture. Veramente un pazzo Powell, quando è venuto qui a Bologna per il Robot nel 2015, cioè il giorno dopo aveva un occhio completamente con i capillari tutti scoppiati. E per la puntata Club to Club non avevamo appunto ascoltato nessun pezzo, ma avevamo detto di come lui avesse, diciamo, fatto promozione al suo disco facendo affiggere su questi mega cartelloni sulle varie arterie inglesi o londinesi questo mega billboard, questo mega cartellone che riportava il testo della mail di risposta ad una sua mail a Steve Albini, quindi la risposta di Steve Albini, dove lui si professava suo fan e gli chiedeva se poteva usare, non so, campionare la sua musica, e Steve Albini, shellac, gli ha risposto: quello che fai tu mi fa schifo, rappresenta proprio la musica elettronica, rappresenta ciò che io di più aborro nel mondo, ma siccome a me non me ne frega niente di niente, tu con la mia musica puoi fare quello che ti pare. Accelerate. E siamo arrivate alla terza, sempre alle 3:30, stessa ora in cui Powell inizia nel main stage, Jagger Stage. Lei prenderà possesso del Red Bull Music Academy Stage, si tratta di Larry Lesher da Birmingham. Probabilmente ha preso il posto della precedentemente annunciata Princess Nokia, vero nome di Melesha Ogarro, nome d'arte appunto Lady Lesher, genitori caraibici, St. Kitts and Nevis. Già nel 2009, anche lei giovanissima, ha fatto un mixtape, poi nel 2011 si è fatta conoscere di più, una collaborazione con gli Orbital, e è diventata famosa proprio di culto per questi suoi freestyle intitolati Queen Speech. Si possono trovare su YouTube con i testi. Smell a hate about the fragrance. Yeah. They don't wanna see me elevating. Woo. Ooh, wanna talk, but wait, 'cause I got the juice. The juice. Yeah, I got the juice. The juice. Oh yeah, hold on, the juice. Yeah. No one take the juice. iPhone 6 head going on extra horrid. What you telling me? What you telling me? Telling me? Juice everywhere, so you're smelling me. You went funny, Bill Bellamy. Never took an hour, but there's always. In mezzo, Lady Lesher ha fatto anche un EP dal titolo Mona Lesher, appunto. E è uscito a fine aprile questo nuovo pezzo, si chiama Juice, dove si può vedere che oltre ad essere una rapper MC è anche una ballerina. Molto colorato, molto divertente. Larry Lesher da Birmingham, UK, e badate bene che siamo solo alla chiusura del venerdì notte. E poi, belli freschi come una rosa di maggio, appunto sabato 27 ritorneremo nel primo pomeriggio che si spera assolato come l'altra volta, molto molto caldo, dove potremo approfittare delle sdraio che saranno disponibili nello spazio all'aperto, perché sarà attivo il Jungle Stage by Nastro Azzurro dalle 14 alle 19:30. L'anno scorso appunto è stato molto bello, molto soleggiato e molto caldo. Si esibiranno Guxi, Back to Back Patrizio Gabrielli, Swoosh Live, Beat Soup DJ e Marcolino Back to Back ADL DJ Set. E invece alle 10 si riparte con la programmazione nella sala grande, alle 22 con un duo live, Elefantides. Daniele Sciolla si è formato al Conservatorio di Torino facendo studi jazz, e Sergio Tentella, anche lui è jazzista formatosi all'Accademia di Santa Cecilia, per una performance basata su cambi metrici, strumenti acustici ed elettronici. Anche per questo act non abbiamo supporti sonori da poter passare, siamo passati direttamente a Christophe Chassol. La Christophe Chassol incide per la Tricatelle di Bertrand Bourgalat, classe 76, compositore, pianista geniale, autore di colonne sonore per film, serie TV, pubblicità, originario della Martinica, entra in conservatorio a 4 anni, ne esce a 20. Una borsa di studio al prestigioso Berklee College of Music di Boston, direttore d'orchestra dal 94 al 2002, collaborazioni con Sébastien Tellier, ha curato gli arrangiamenti di Politics e Phoenix. Tra le sue ispirazioni Stravinsky, Steve Reich, ma anche Morricone, Miles Davis e Cure, 5 album dal 2012, l'ultimo Ultrascore 2 del 2016. Stiamo ascoltando Les Oiseaux, Aqua Serge. Questo pezzo per me è meraviglioso. Musica globale, colonna sonora potenziata che coglie davvero i suoni della contemporaneità, che mischia elettronica, pop, jazz e funk, musica contemporanea, diciamo che un po' la cifra stilistica anche degli altri nomi che si esibiscono sabato 27 maggio è un po' quella del jazz, molto presente anche per altri nomi. Ma torniamo al palco principale. In realtà c'è questa sovrapposizione. Ah no, non è vero. 22:30 Chassol Red Bull, mentre alle 23:30 Wrong on You, ne abbiamo parlato poco tempo fa. Ne abbiamo parlato poco tempo fa, appunto, nella puntata dedicata alla seconda al Primavera Sound Festival di Porto, però l'abbiamo nominato perché sarà uno degli italiani scelti per esibirsi allo showcase del Primavera Pro di Barcellona. Marco Zitelli, Roma 1990. Avevamo ascoltato The Mountain Man, pezzo omonimo del suo EP del 2016, mentre questo è l'ultimo singolo, si chiama Let Me Down. Diciamo che musicalmente forse si discosta da quello che è, insomma, la cifra stilistica del Spring Attitude. Era un EP abbastanza indie tronico, forse questo è il pezzo più, non so, folk pop di questo EP, in attesa dell'album di debutto che arriverà quest'anno e, come vi ho detto l'altra volta, sarà prodotto da Michele Canova, cioè il produttore dei più grandi nomi della storia della musica pop italiana contemporanea e anche un po' passata. Ma speriamo che questa performance allo Spring Attitude dia una bella spinta poi per l'esibizione al Primavera Pro di Barcellona, che sarà pochi giorni dopo. ritorniamo al Red Bull Music Academy Stage con un duo che oserei dire forse un ex duo, sono gli Youssef Kamal. Quindi nell'ultima serata sono tanti suoni jazz, anche funk o anche jazz funk cosmico, come appunto nel caso di Youssef Kamal, dalla Gran Bretagna, ovvero l'unione di Youssef Days e Kamal Williams, che sembra che adesso abbia assunto il nome Henry Wu. Un album del 2016, Black Focus, da cui stiamo ascoltando Lowrider. Avrei detto molto altro, se non che all'ora di pranzo, rivelazione, una aggiunta di notizia nella scheda dedicata a loro su Discogs, che dice che il 3 maggio hanno annunciato sulla loro pagina Facebook, quindi pochi giorni fa, che non suoneranno più insieme col nome di Youssef Kamal. E c'è scritto: la musica dal disco Black Focus verrà eseguita da due ensemble di musicisti diversi, uno guidato da Williams, che adesso appunto si chiama Henry Wu, e l'altro guidato da Days. Quindi la domanda sorge spontanea: quale dei due complessi, proprio complessi di musicisti, e quale dei due, se Youssef o Kamal, si esibirà a Roma? E rimaniamo appunto con questo dubbio che verrà sciolto quando potremo vedere chi ci sarà davanti al Red Bull Music Academy Stage nella sera del 27 maggio, serata di chiusura dello Spring Attitude Festival. Come abbiamo detto, fino all'anno scorso l'ultima serata con insomma i nomi più grossi, l'anno scorso c'erano Yair per esempio, si svolgeva lo spazio 900 dell'Eur. Noi appunto a livello logistico, non tanto estetico, però insomma anche un po' a livello di stile, diciamo che forse Guido Reni District è più insomma nelle corde di quello che è Spring Attitude. E siamo arrivati a degli habitué del festival, ovvero un habitué che sia con la sua band o che sia col suo progetto solista di incredibile successo, Marco Bianchi ogni anno va allo Spring Attitude, che sia come Cosmo o che sia come Drink to Me. Infatti che alle 0:45 sullo Jaeger Stage torneranno i Drink to Me, mentre l'anno scorso Cosmo ha fatto questo live, veramente non si respirava nella stanza, non si poteva entrare, infatti io stavo fuori nella stanza, lo stage più piccolo, concerto appunto come Cosmo, dicevo o come gruppo o da solo, un anno sì, un anno no, sempre presente a Spring Attitude. E quest'anno sarà con la band Drink to Me, nata a Torino nel 2002, un indie rock sempre più tinto di elettronica, dove Marco Bianchi insieme a Carlo Casalegno e Francesco Serrasso, poi c'era anche Pier Kindemi che ora non fa più parte del gruppo, primo album nel 2008 e altri tre fino a Bright White Light del 2014, da cui abbiamo ascoltato diversi pezzi, uno nella puntata novembre 14 dedicata ai Niagara, a loro concittadini, e poi appunto per parlare della loro partecipazione a Spring Attitude del 2015. E quindi sempre dal molto bello Bright White Light ci stiamo ascoltando No Treasure, ovvero È finita. E torniamo nell'altro palco. Je t'aime, oui, je t'aime. Tu m'as dit va-t'en. Ritorno anche lui presente a Spring Attitude di due anni fa è quello di Archie Fairhurst, nome e viso di altri tempi, proprio super British, che invece però ha assunto uno pseudonimo americano, ovvero Romare, che era il nome di uno scrittore e pittore afroamericano, Romare Bearden, specializzato nella tecnica del cut and paste, ovvero del collage. E si sente insomma il riferimento al funk. Lui fa soprattutto house, appunto con riferimenti che jazz, blues, funk e disco. Molto elegante, molto bello da guardare. Dal 2012 diversi singoli EP, come tutti i musicisti di questa scena fanno normalmente. Un primo album per la Ninja Tune, Projections, nel 2015, seguito subito nel 2016 da Love Songs Part 2, da cui appunto stiamo ascoltando Je t'aime, uno dei singoli. We'll be right back. Romare, nome d'arte di Archie, immagino Archibald Fairhurst, sarà sicuramente una casata antica della Gran Bretagna. E stiamo ascoltando Je T'aime, come vi avevo detto, uno dei singoli che appunto giustamente si chiama Je T'aime per un album che si chiama Love Songs Part 2. E finisce Je T'aime e ritorniamo nella sala grande Jäger Stage per uno dei nomi veramente più attesi di questa rassegna, ovvero Sailor and I, pseudonimo di Alexander Sjödin from Sweden, attivo dal 2012 e adesso proprio consacrazione grazie a pezzi come quello, soprattutto come quello che stiamo ascoltando, Black Swan, e suoi remix che l'hanno fatto conoscere anche nel mondo del clubbing, anche se comunque anche parte della sua musica è techno e house, però anche fondamentalmente synth pop. Tipo questo pezzo è stato remixato da uno dei producer che più amiamo, ovvero Massio Plex, ma anche Am, Agents of Time. Questo pezzo è contenuto nel nuovo album, primo, pubblicato il 24 febbraio per la Skint P a Splayed Against Sam. Il titolo del disco è The Invention of Loneliness. Davvero un bel viaggio questo pezzo. We'll be right back. una voce particolare, quella di Alexander Sjödin, una bella faccia, polistrumentista dalla preparazione musicale vastissima. Leggiamo nella scheda di presentazione springattitude.com: da Miles Davis al punk, dalla classica ai Beach Boys, dal rock a Sakamoto. .it. E la scheda di presentazione su springattitude.it, non.com, riporta una sua dichiarazione. Dice: la mia musica è come uno scontro di due volontà diverse dentro la stessa persona. E noi, insomma, abbiamo abbastanza aspettative nel poterlo vedere dal vivo. E adesso cambiamo proprio suoni. Dopo che alle 2 Jagger Stage ci sarà appunto Sailor and I, ritorniamo idealmente al Red Bull Music Academy Stage. Alle 2.10 G-Com Ho featuring Nancolè e Mafia Boys. Abbiamo già parlato della G-Com, genere musicale prosperato negli ultimi anni a Durban. Ne abbiamo parlato perché era presente Nancolè con diversi DJ della scena di Durban, della G-Com, a Club to Club. E quindi abbiamo parlato di lui, questo predicatore del verbo di questo genere musicale nel mondo, definito Natural Born Musical Activist. In realtà è romano. Ha iniziato come DJ, resident nelle serate romane Afrodisia, l'Afrique a Rome, poi l'illuminazione a Durban, la creazione di un'etichetta dedicata proprio a questa musica, G-Com Ho, punto esclamativo. Francesco Cucchi era ed ora è Nancolè, che come abbiamo detto l'altra volta, in lingua Kpelle della Liberia significa uomo brillante, luminoso. In rappresentanza di questa scena, di questa musica, nella trasmissione su Club to Club abbiamo passato un pezzo di uno dei pionieri della G-Com. Lui si definisce veramente il primo in assoluto, ovvero DJ Lag, mentre adesso è proprio un pezzo di Nancolè, che il 14 aprile ha pubblicato un EP dal nome Malums. Il pezzo che stiamo ascoltando è By a File e il titolo dell'EP Malums è appunto il suo soprannome, come viene chiamato, soprannominato affettuosamente a Durban, significa zio in Zulu, quindi a Durban come a Milano, bella zio. Prima dicevamo della presenza sempre di suoni, di artisti, l'emergenza di suoni nordafricani, medio orientali, ma anche direi che in Italia Spring Attitude è stato il primo festival che ha intercettato i nuovi musicisti che portavano suoni dell'Africa soprattutto, e lo si vedrà anche nel prossimo pezzo che stiamo ascoltando, uno dei appunto musical activist più attivi e anche il cui valore è stato riconosciuto da artisti come Paul Simon, che l'hanno voluto per una produzione aggiuntiva, l'aggiunta dei suoi beat in tre dei suoi pezzi. Stiamo parlando di un nome appunto già sentito in passato a Might FM, parliamo di Cristiano Crisci, ovvero Clap Clap, suo alias precedente era Digi D'Alessio. L'abbiamo ascoltato diverse volte perché appunto è già stato al festival, ha pubblicato un bellissimo album nel 2014, Tagli Bebba, e l'ultima volta l'avevamo sentito poco tempo fa, a marzo, nella compilation dedicata al Lisboa Dance Festival, dove sulla carta figurava tra gli invitati di Branco, che era uno dei due curatori di questo festival portoghese insieme a Mulinex, anche lui, Branco, diciamo campione dei suoni del sud del mondo, soprattutto grazie al suo gruppo, i Buraka Sound System, ma invece quando siamo arrivati lì aveva dato buca. Quindi ricapitolando, quando nella sala principale, dopo Celero e Nai, alle 3:15 chiuderanno i DJ dello Spring Attitude Sound System, nella sala più piccola, dopo Nancolè e Mafia Boys, ci sarà appunto Clap Clap, Cristiano Crisci, classe 1981 di Firenze. È famoso appunto per i suoi live, è veramente una molla, è una concentrato di energia al testosterone, dei live incendiari, nonostante questo ultimo disco uscito da poco, bellissimo, A Thousand Skies, sia molto molto più calmo, ma immagino che il live, anche perché sarà l'evento di chiusura del festival, sarà indiavolato. L'altra volta nella compilation sul Festival di Lisbona avevamo fatto un mix di tre pezzi di questo ultimo album, il primo era questo, molto bello, che invece adesso ascoltiamo interamente, si tratta di Hope featuring Oi. Pezzo veramente veramente bello, che si può anche ascoltare nella programmazione di Radio Kairos, chi vi ha accompagnato come sempre a fare questa cavalcata ideale in anticipazione poi della presenza reale e fisica davanti ai palchi dello Spring Attitude Festival edizione 2017. È stata come sempre Claudia Mighty Mao qui dagli studi di Radio Kairos presso il TPO di Bologna. Roma è vicina, Roma è bella, perché non fare un salto questo ultimo weekend di maggio? Noi ci saremo. Ciao.